Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Da quarto al Volturno, Noterelle di uno dei mille, di Giuseppe Cesare Abba. Alla vigilia della grande impresa. Parma, 3 maggio 1860, notte. Le ciance saranno finite. Se ne intesero tante che parevano persino accuse. Tutta Sicilia in armi. Il Piemonte non si può muovere, ma Garibaldi... 30.000 insorti accerchiano Palermo. Non aspettano che un capo, lui. Ed egli se ne sta chiuso in Caprera? No, è in Genova. E allora perché non parte? Ma Nizza ceduta, dicevano alcuni. E altri più generosi. Che Nizza? Partirà col cuore afflitto. Ma Garibaldi non lascerà la Sicilia senza aiuto. I più generosi hanno indovinato. Garibaldi partirà. Ed io sarò nel numero dei fortunati che lo seguiranno. Poco fa parlavo di questa impresa con l'avvocato Petitbon. Egli, che l'anno scorso, nella caserma dei cavalleggeri d'Aosta, pregava con noi che nascesse la rivoluzione nel pontificio o nel napoletano, da che Villafranca aveva troncata la guerra in Lombardia, non potrà venire con noi e si affligge. Alla madre ammalata, ci lasciammo con la promessa di rivederci domani e se ne andò lento e scorato per via dei genovesi. Mentre io stavo a guardarlo, mi venivano di lontano, per la notte, rumori d'asce e di martelli, e li odo ancora. Ma i cittadini non si lagneranno della molestia, perché la fretta è molta. Si lavora anche di notte a piantare abetelle, a formare palchi, a curvare archi trionfali per la venuta di Re Vittorio. Verrà dunque il re desiderato fra questo popolo, che ora 6 anni vide cadere Carlo III Duca, pugnalato in mezzo alla via. Io era allora scolaro di 14 anni e ricordo il racconto che dell'orribile caso ci fece il padre maestro Scolopio. Frate raro, biasimava l'uccisore ma non lodava l'ucciso. Che Carlo III fosse quel duca che prima del 48 fu in Piemonte ufficiale di cavalleria? Se fu, vi lasciò tristo nome. Intesi narrare che una notte in Torino due ufficiali burloni, di gran casato, amici suoi, lo affrontarono per celia. Pare che ne restasse così atterrito che i due dovettero palesarsi, tanto che non morisse dalla paura. E allora egli minacciò che guai a loro se un dì fossero capitati a passare per i suoi stati. «Semmai», rispose uno dei due, «pianteremo gli sproni nei fianchi ai cavalli e salteremo di là dei tuoi stati senza toccarli». Povero duca, ora nei suoi stati viene Vittorio. Gran fortunato questo principe. Chi vuole fare qualcosa per la patria, sia pure non amico di re, deve contentarsi di dar gloria a lui. Parma gli farà grandi accoglienze, e noi non saremo più qui. Parma, 7 maggio. Alla stazione. Li ho contati. Partiamo in 17. Studenti più qualche operaio, 3 medici. Di questi uno, il Soncini, è vecchio, della Repubblica Romana. Dicono che nel treno di Romagna troveremo altri amici, fiori di gente. Ne verranno da tutte le parti. Si fanno grandi misteri su questa partenza. A sentire qualcuno neanche l'aria deve saperla. Ci hanno fatto delle serie raccomandazioni... Ma intanto tutti sanno che Garibaldi è a Genova e che andrà in Sicilia. Attraversando la città abbiamo dato e pigliato delle grandi strette di mano e avuto dei caldi auguri. Genova, 5 maggio, mattino. Ho riveduto Genova dopo 5 anni dalla prima volta che vi fui lasciato solo. Ricorderò sempre lo sgomento che allora mi colse all'avvicinarsi della notte. Quando vidi accendere i lampioni per le vie, mi si schiantò il cuore. Fermai un cittadino che passava frettoloso per chiedergli se con un buon cavallo, galoppando tutta la notte, uno avrebbe potuto giungere prima dell'alba al mio villaggio. Colui mi rispose stizzito che manco per sogno. Quella notte fu lunga e dolorosa, e ora, come posso dormire tranquillo, benché lontano dai miei e a questi passi? Ieri sera arrivammo ad ora tarda, e non ci riusciva di trovare posto negli alberghi, zeppi di gioventù venuta di fuori. Sorte che, lungo i portici bui di Sottoripa, ci si fece vicino un giovane, che, indovinando, senza tanti discorsi, ci condusse in questo albergo. La gran sala era tutta occupata, si mangiava, si beveva, si chiacchierava in tutti i vernacoli d'Italia, però si sentiva che quei giovani, i più, erano lombardi, fogge di vestire eleganti, geniali, strane, facce baldanzose, persone nate fatte per faticare in guerra, e corpi esili di giovanetti che si romperanno forse alle prime marce. Ecco ciò che vidi in una guardata. Entravamo in famiglia, e seppi subito che quel giovane che ci mise dentro si chiama Cariolato, che nacque a Vicenza, che da 10 anni è esule, che ha combattuto a Roma nel 49 e in Lombardia l'anno passato. Gli altri mi parvero la maggior parte gente provata. Più sul tardi. Stamane il primo passo lo feci da un amico al quale farò conoscere i dottori di Parma, che a lui, studenti di medicina, sarebbero cari, se potesse venire con noi. «Tu vai in Sicilia!» esclamò appena mi vide. «Grazie, tu non mi hai detto mai parole più degne». «È una grande fortuna», soggiunse pensoso, e dopo lunghi discorsi prese la lettera che gli diedi per casa mia. Egli la porterà soltanto quando si sappia che noi saremo sbarcati in Sicilia. Se si dovesse fallire, voglio che la mia famiglia ignori la mia fine. Mi aspetteranno ogni giorno, invecchiando con la speranza di rivedermi. Mi abbattei nel signor senatore che mi conobbe giovinetto. Egli mi ha detto che in Genova si è radunata una mano di faziosi, i quali, oggi o domani, vogliono partire per andare a fare guerra contro sua maestà, il re di Napoli. Non sa più in che mondo viva. E se il governo di qui non mette la mano sopra quegli sfaccendati perturbatori... Basta, spera ancora. Scaricava così la collera che gli bolliva, ma a un tratto si piantò, domandandomi se per avventura fossi anch'io della partita. Io non risposi. Allora, certo ad avere colto nel segno, cominciò con le meraviglie, poi con le esortazioni. Come? Poteva essere che il mondo si fosse girato tanto da trovarsi a simili fatti un giovane, uscito dal fondo d'una valle ignota, allevato da buoni frati, figlio di gente quieta, adorato dalla madre, poi passò alle minacce. Avrebbe scritto, si sarebbe fatto aiutare da quanti del mio paese sono qui, mi avrebbe affrontato all'imbarco per trattenermi. Ed io nulla. Ultima prova, quasi piangendo e con le mani giunte, proruppe: «Ma che cosa vi ha fatto il re di Napoli a voi, che non lo conoscete e andate a fargli guerra, briganti?» Eppure un suo figlio verrà con noi. Desinammo in quattro, né allegri né mesti, e restammo a tavola pensando ognuno lontano, secondo il proprio cuore. Tacevamo. A un tratto il dottor Bandini, che m'era di faccia, si levò a ritto, con gli occhi nella parete sopra di me. V'era un ritratto. Pisacane. Io lessi alto una strofa stampata a piede dell'immagine di quel precursore, una delle strofe della Spigolatrice di Sapri. Al ritornello il dottor Bandini mi fu sopra con la sua voce potente e lesse lui. «Eran 300, eran giovani e forti, e sono morti». Tornò il silenzio di prima, ed io pensai alla notte che si fece sulle due Sicilie dopo l'eccidio di Sapri. Oh, allora... come deve essere parsa fuori di ogni speranza una ripresa d'armi a quella povera gente laggiù. Ai profughi si affacciò il sepolcro in terra straniera, e il regno fu tutto un carcere. Da Quarto a Marsala. Quarto, presso la Villa Spinola, 5 maggio, a 1 ora di notte. Ho bevuto l'ultimo sorso. Strana coincidenza di date, partiremo stasera. Chi fra quanti siamo qui non ripensa che oggi è l'anniversario della morte di Napoleone? In mare, dal piroscafo Il Lombardo, 6 maggio, mattino. Navigheremo di conserva, ma intanto quelli che montarono sul Piemonte furono più fortunati. Hanno Garibaldi, I due legni si chiamano Piemonte e Lombardo, e con questi nomi di due province libere navighiamo a portare la libertà alle province schiave. Noi del Lombardo siamo un bel numero. Se ce ne sono tanti sul Piemonte, arriveremo al migliaio. Chi potesse vedere nel cuore di tutti ciò che sa ognuno della nostra impresa e della Sicilia? A nominarla sento un mondo nell'antichità. Quei siracusani che solo a sentirli cantare i cori greci mandarono liberi i prigionieri di Nicia, mi parvero sempre una delle più grandi gentilezze che siano state sulla terra. Quel che oggi sia l'isola non lo so. La vedo laggiù, in una profondità misteriosa e sola. E Trapani? Mi vibrano bene nella mente, in questi momenti, le parole di quel volontario che fu in Crimea. Appoggiammo a Trapani, raccolta laggiù su d'una punta squallida, città colma di mestizia fin sopra i tetti. Venivano sulle barche dei poveri straccioni a venderci frutta, girando stupefatti attorno alla nostra nave. «Che cosa siete?» ci chiedevano. «Piemontesi. E dove andate?» «In Crimea, alla guerra. In Crimea, alla guerra», ripetevano chinando il capo, e se ne andavano pieni di compassione. «Vedremo Palermo. Vedremo la piazza dove fu fatto l'auto da fe di fra Romualdo di suor Gertrude. Il padre Canata ce lo lesse nella colletta in scuola, e leggendo pareva che schiaffeggiasse la plebe e i grandi che banchettarono con gli occhi sul rogo. Ricordo più dolce. Mio padre narrava che l'anno della fame, 1811, essendo egli fanciullo, la gente si nutriva di certe mandorle grosse come un pollice, portate di lontano, dalla Sicilia. «E che cosa è la Sicilia?» domandavamo noi i fanciulli. E lui? «Una terra che brucia in mezzo al mare». Nell'anno 1857, l'anno d'Orsini, da Gesilao, di Pisacane, su per le colonne di Via Poi in Torino, lessi scritto col carbone: «Sicilia insorta, allarmi, fratelli». Chissà da qual mano furono scritte quelle parole, e se le scrisse un esule, come sarà felice se per avventura è con noi. Genova, nelle ore supreme, fu ammirabile. Nessun chiasso, silenzio, raccoglimento e consenso. Alla porta Pila v'erano delle donne del popolo che a vederci passare piangevano. Di là a quarto, di tanto in tanto, un po' di folla muta. A piede la collina d'albero alzai gli occhi per vedere ancora una volta la villa, dove Byron stette gli ultimi giorni prima di partire per la Grecia, e il grido di Aroldo a Roma mi risonò nelle viscere. Se vivesse, sarebbe là sul Piemonte, a fianco di Garibaldi Inspiratore. Questo villaggio è quarto? Sì. Dov'è la villa Spinola? Più avanti. Tirai avanti. Ecco la villa. Biancheggiava una casina di là da un gran cancello, in un bosco oscuro nella cui profondità, pei viali, si muovevano uomini affaccendati. Dinanzi, sullo stradale che ha il mare lì sotto, v'era gran gente, un bisbiglio e un caldo che infocava il sangue. La folla oscillava. «Eccolo! No, non ancora!» Invece di Garibaldi usciva dal cancello qualcuno che scendeva al mare o spariva per la via che mena a Genova. Verso le 10 la folla fece largo più agitata. Tacquero tutti. Era lui! Attraversò la strada e per un vano del muricciolo rimpetto al cancello della villa, seguito da pochi, discese franco giù per gli scogli. Allora cominciarono i commiati, ed io, che non aveva lì nessuno, mi sentii negli occhi le lacrime. Avviandomi per discendere, mi abbattei in Dapino, mio condiscepolo di 6 anni orsuno. Aveva la carabina sulla spalla. Fui lì per abbracciarlo, ma gli vidi a fianco suo padre e un suo fratello, e mi cadde l'animo. Temei d'assistere ad una scena dolorosa, perché mi pareva che quel padre, che io so tanto amoroso, fosse venuto per trattenere il figliuolo, e 2 passi più sotto vi erano le barche, e una turba silenziosa come di ombre sfilava giù in quel fondo. Invece ecco il padre e il fratello abbracciare l'amico mio e mi si fa un nodo alla gola. Qui accanto dicono d'un altro che non conosco. Sono veneti, giovani belli e di maniere signorili. Sapete che la madre di Luzzatto venne a cercarlo? Da Udine? O da Milano, non so. Corse di qua, di là, da Genova alla Foce, dalla Foce a Quarto, chiedendo, pregando, e tanto fece che lo trovò. E lui. La supplicò di non dirgli di tornare indietro, perché sarebbe partito lo stesso, col rimorso d'averla disobbedita. E la mamma se n'andò sola. Non si vide più terra. Una brezzolina increspava le acque. Sulle navi si faceva un gran vociare, era una tempesta di chiamate, di apostrofi e anche di sagrati che lasciavano il segno nell'aria come saette. Fu una mezz'ora di gran furia, chi facesse più presto a imbarcarsi, e anch'io potei finalmente agguantare una gomena e salire. Ho sempre negli occhi un giovane che in quel momento vidi convulso di battersi in fondo ad una delle barche, tenuto a stento da 3 compagni, che fosse pentito. O il mal di mare l'avesse ridotto in quello stato. Si odono tutti i dialetti dell'Alta Italia, però i genovesi e i lombardi devono essere i più. All'aspetto, ai modi e anche ai discorsi la maggior parte sono gente colta. Vi sono alcuni che indossano divise da soldato. In generale veggo facce fresche, capelli biondi o neri, gioventù e vigore. Teste grigie ve ne sono parecchie, ne vidi anche 5 o 6 affatto canute. Ho notato sin da stamane qualche mutilato. Certo sono vecchi patrioti, stati a tutti i moti da 30 anni in qua. «Anche tu sei qui!» esclamava uno abbracciando un amico. «Non eri a Parigi? Arrivai ieri sera. A tempo per venir con noi? E avreste voluto fare senza di me?» Mi parve una vantazione che stesse male. Ma l'aria del giovanotto elegante era tanto semplice e sicura. «Non domando mai d'uno chi sia». Poi me ne pento. Fino ad ora non conosco che Airenta dei nuovi. Egli, mentre scrivo, dorme lungo disteso con la testa appoggiata alla sua sacca vicino ai miei piedi. È un giovane d'oro. Ci conoscemmo ieri. Ci trovammo qui, ci siamo promessi di star sempre insieme. I suoi maestri del seminario arcivescovile di Genova, quando sapranno il passo che ha fatto... Che? Un uomo in mare. Fu un quarto d'ora d'angoscia. «Indietro alla macchina!» urlava il capitano, e il legno si fermò sbuffando, ma l'uomo, caduto in mare, era già lontano. Appariva, spariva e lottava. Fu presto calata una lancia. La spingemmo con gli occhi, coi gesti, con l'anima, tutti. Il caduto fu raggiunto, agguantato, salvato. Dicono che sia un genovese. Mi si era fitto in mente che questo capitano del Lombardo fosse un francese. L'aria, gli atti, il tono suo di comandare lo mostrano uomo che in sé ne ha per 10. A capo scoperto, scamiciato, iracondo, sta sul castello come schiacciasse un nemico. L'occhio fulmina per tutto. Si vede che sa far di tutto da sé. Forse in mezzo all'oceano, abbandonato su questa nave, lui solo, basterebbe a cavarsela. Il suo profilo taglia come una sciabolata, si aggrotta le ciglia, ognuno cerca di farsi piccino, visto di fronte non si regge al suo sguardo, eppure, a tratti, gli si esprime in faccia una grande bontà. Che capriccio fu quello di chiamarlo Nino? Pixio! Ecco il nome che gli sta. Almeno rende qualcosa come un guizzo di folgore. Talamone, 8 maggio. Le compagnie sono formate, 8 in tutto. Io coi miei amici siamo scritti alla 6ª. La comanda Giacinto Carini, siciliano, che mi pare di 35 anni. Dicono che nel 48 fu colonnello di cavalleria, che stesse con l'armi alla mano sino all'ultima caduta della rivoluzione, che da quei tempi visse in Francia, sperando e scrivendo. Siamo lieti d'avere per capo un siciliano, che ha fama di prode. E poi è un così bel tipo di soldato, affabile, gentile, parla e innamora. E siciliani sono anche gli altri ufficiali della compagnia, salvo un modenese, che deve sapere bene il mestiere, ed essere anch'egli uomo ardito e di franco coraggio. Bixio, Lamasa, Anfossi, Cairoli, ed altri bei nomi della nostra storia, comandano ognuno una compagnia. Tutti gli ufficiali hanno qualche bella pagina di valore, Parecchi sono ancora di quei di America. Ne ho visti 3 che hanno un braccio solo. Primo aiutante del generale è il colonnello Tur, ungherese, e Sir Tori è il capo dello Stato Maggiore. Abbiamo con noi il figlio di Daniele Manin e ho inteso parlare d'un poeta gentile che canterà le nostre battaglie. Si chiama Ippolito Nievo. Tutti i genovesi che hanno carabina, forse 40, formano un corpo di carabinieri. Il loro capitano, Antonio Mosto, chi lo volesse dipingere, è una bella testa di filosofo antico. Di modi e di fisionomia austero, pare uno che abbia fatto penitenza sino ad oggi per affrettare la resurrezione d'Italia. È conosciuto per coraggiosissimo. E infatti come potrebbe non esserlo se quei giovani lo tengono per primo? Il povero Sartori era seduto sul ciglio di quello scoglio, col mare là sotto a picco. Si querelava tra sé, ma udì il mio passo e si tacque. Gli chiesi che cosa avesse. Mi rispose che era stato lì lì per buttarsi da quell'altezza, offeso nel vivo da un capitano che gli impose di levarsi di capo il berretto da ufficiale portato nell'esercito dell'Emilia. Deve essere stato un battibecco fiero. Sartori obbedì, ma ha giurato di far parlare di sé. Allegro che scoppiava nei panni, montato a bisdosso su d'un asinello, uno dei nostri cavalcava su per l'erta tra le risa dei suoi amici. La povera bestia cadde e il giovane andò giù, ruzzoloni, rimanendo malconcio. Fu messo a letto nell'osteria e vi rimarrà chissà quanto. Poveretto, quando noi ripartiremo. Una mano dei nostri si staccheranno tra poco da noi. Passeranno il confine romano condotti da Zambianchi. Mi duole per i 3 medici di Parma destinati a seguirlo. Diverse venture, comunque la meta sia una. Noi non ci siamo detti addio. E mi hanno detto che sono partiti, o stanno per partire, non so quanti, che non vogliono più seguire il generale, perché al grido di guerra ha mescolato il nome di Vittorio Emanuele. Se ne parla, se ne giudica, ma non se ne sente dir male. 9 maggio. Dal Lombardo in faccia a San Stefano. Ieri sera ci imbarcammo che il mare pareva volersi mettere in burrasca. Gli abitanti di Talamone ci salutarono dalla riva, accompagnandoci con auguri pietosi. Sono venuti a bordo del Lombardo 3 bersaglieri fuggiti da Orbetello. Uno venera già sin da Genova, Pilade Tagliapietre, trevisano. Se alla Marmora, che creò questa sorte di soldati e li condusse da Goito in Crimea, invincibili sempre, avessero predetto che un giorno 4 giovani vestiti dei suoi panni guarderebbero dalla tolda di un bastimento alla Sicilia rivolta, chissà che rigonfiamento di cuore ne avrebbe avuto e che sorta di esclamazioni avrebbe tartagliato. Oh, la vecchia Sicilia di Vittorio Amedeo. Ci deve essere gran fretta di partire, perché Bixio grida ai barcaiuoli che vanno e vengono portando acqua 20 franchi ogni barile se me li portate prima delle 11. I barcaiuoli fanno forza di braccia e le barche volano. Intanto che si aspetta l'acqua, fanno la distribuzione delle armi. Ne ho avuto una anch'io. Uno schioppo rugginoso che, Dio mio, e m'hanno dato un cinturino che pare d'un birro, una giberna, una baionetta e 20 cartucce. Ma non si diceva a Genova che avremmo avuto delle carabine nuovissime. C'è di peggio. Il colonnello Tur fu ieri ad Orbetello e tornò con 3 cannoni e una colubrina lunga come la fame. Roba che deve essere dei tempi quando quel lembo di terra là si chiamava lo Stato dei Presidi. Come faremo, tanto male armati laggiù? L'acqua è arrivata. Si salpa l'ancora. Santo Stefano, addio. Girato quel promontorio saremo di nuovo nel grande mare e che Dio ci aiuti. 10 maggio. Il caporale Plona si lasciò sfuggire non so che brutte parole e Bixio giù gli scaraventò un piatto in faccia. Ne venne un po' di subbuglio. Come un razzo Bixio fu sul castello gridando «Tutti a poppa! Tutti a poppa!» e tutti ad affollarsi a poppa rivolti a lui, ritto lassù che pareva lì per annientarci, e parlò. «Io sono giovane. Ho 37 anni ed ho fatto il giro del mondo. Sono stato naufrago e prigioniero, ma sono qui. E qui comando io. Qui io sono tutto. Lo zar, il sultano, il papa, sono Nino Bixio. Dovete obbedirmi tutti, guai chi osasse un'alzata di spalla e guai chi pensasse di ammutinarsi. Uscirei con il mio uniforme, con la mia sciabola, con le mie decorazioni e vi ucciderei tutti. Il generale mi ha lasciato, comandandomi di sbarcarvi in Sicilia. Vi sbarcherò. Là. Mi impiccherete al primo albero che troveremo, ma... E misurò con lo sguardo lento la calca. Ma in Sicilia, ve lo giuro, vi sbarcheremo. Viva Nino Bixio, viva, viva, viva, e mille braccia si alzarono a lui che stette lassù, fiero un poco, ma poi impallidì. Gli balenarono gli occhi e ci volse le spalle. Dall'alto dell'alberatura i marinai applaudivano. Allora di mezzo a noi si udì la voce quasi fioca di uno, che ritto su di una botte, coi capelli e la barba di un biondo scialbo, con una faccia fine e soave, non più giovane né gagliardo, arringava, annaspando nell'aria con le braccia, parlando di Garibaldi e di Bixio con grandi lodi. Stiamo a vedere, pensai, che Bixio gli scarica addosso una pistolettata. Mi volsi proprio temendo, ma Bixio non era più sul castello. L'oratore tirò innanzi un altro poco, poi dovè discendere senza concluder nulla. Niuno badava a lui, perché le parole di Bixio avevano fatto sugli animi come il vento sulle acque. Tutti erano agitatissimi, ognuno avrebbe data per Bixio la vita. Ho chiesto il nome di quell'oratore che ha viso dolce di Galileo, e mi hanno detto che è la Masa.